L'Evangelo per radio. Il vero amore. Gentili ascoltatori, leggevo tempo fa su un giornale una curiosa domanda fatta ad uno psicologo e la sua risposta. Vorrei farvi partecipi di queste considerazioni. La domanda era: considerando i continui cambiamenti del mondo oggi, come possiamo essere sicuri che la persona che scegliamo di sposare continuerà ad amarci e a comprenderci per tutta la vita, anche quando le nostre necessità subiranno dei cambiamenti? Lo psicologo rispose in questi termini: la risposta alla domanda dipende dall'amore che tu hai per la tua compagna o compagno. Come ben saprai, ci sono diversi tipi di amore che portano la gente a sposarsi, e precisamente ce ne sono quattro. Vi è l'amore neurotico. È un po' il sentimento "ti amo perché ho bisogno di te" e motivato dalla necessità di una sicurezza personale piuttosto che da un attaccamento genuino, un vero interessamento. Questo tipo di amore è fondamentalmente egoista ed è un matrimonio basato soltanto sulla soddisfazione delle proprie necessità. È un matrimonio molto instabile. Poi vi è l'amore erotico, cioè l'attaccamento sessuale. Questo genere di amore è soggetto a costanti cambiamenti durante tutta la vita. Troppa enfasi si dà oggi all'importanza del sesso, sia nel matrimonio sia fuori da esso. Coloro che si lasciano guidare dai loro istinti amano e non amano, secondo i loro cambiamenti fisici, e il loro stato di matrimonio cambia secondo le loro necessità sessuali. Poi vi è l'amore da transfert, è amare una persona perché è simile ad un'altra che si è amata in precedenza, come anche perché è simile a un genitore. Un marito non dovrebbe essere il padre della moglie, né una moglie dovrebbe essere la mamma del marito. Questa confusione di ruoli non darà basi solide al matrimonio. Poi vi è l'amore vero, è amare una persona per quello che è una persona, piuttosto che per le proprie necessità, per il sesso o per altre piacevoli sensazioni che potrà richiamare. Devo dire che la risposta dello psicologo è stata veramente saggia, però mi sembra che lo psicologo abbia dimenticato un piccolo particolare. Noi, per natura, siamo profondamente egoisti. Lo dimostra il fatto che la domanda che gli ha posto quella persona tendeva appunto a sapere come continuerà ad amarci il coniuge che sposiamo. Non si era posto il problema di come lei avrebbe potuto continuare ad amare la persona che sposava. Questo dimostra il profondo egoismo radicato in noi. Quindi, dal momento che ognuno di noi ha un insaziabile bisogno d'amore, bisogna che si rivolga a chi può dare il vero amore. E il vero amore chi lo può dare se non Dio solo, colui che ci ha amati e ha dato se stesso per noi? Bisogna che tu ti rivolga a Dio per essere dissetato di amore, e non solo. Se tu poni una fede reale in Dio, se ti abbandoni a Lui totalmente, ricevi lo Spirito Santo e ricevendo lo Spirito di Dio ricevi uno spirito di amore. Solo così non cercherai più di essere amato, ma essendo lo Spirito Santo in te, come fiumi di acqua viva, il tuo scopo sarà quello di amare il prossimo e non ti porrai più il problema se la persona che hai sposato ti amerà, ma piuttosto ti chiederai: come farò io ad amare il mio coniuge? Cosa devo fare? Questo è il miracolo che può produrre il Signore nella tua vita. Perché oggi ci sono tanti matrimoni infelici? Perché tanti coniugi infedeli? Perché si è insoddisfatti? Perché si cerca, si vuole, si pretende di essere amati. Se hai questo desiderio di essere amato, esso ti è stato dato da Dio, ma non perché tu ti rivolga all'uomo, bensì a Dio. Quindi, se vuoi essere sereno per il futuro, se vuoi essere sicuro di amare il tuo prossimo, e quindi il tuo coniuge, vi è un solo modo: chiedi a Dio che ti rigeneri per lo Spirito Santo. Solo allora sarai in grado di amare il prossimo anziché aspettarti di essere amato. È donando che si riceve, è amando che si è amati, è servendo che si è serviti. Se tu credi a questi principi divini, troverai la vera vita che hai sempre cercato. Realizzerai che Dio è amore, perché è Lui che vive in te.